L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati. Polso, sempre con polso. Su, giù, lunga pennellata. Ah, molto bene. Su, giù. No, no, no, no, no, non guardare me, devi guardare steccato. Ah, piega polso. Quando vai giù lo devi piegare, capito? Ah, bene. Lunga pennellata. Su, giù. Molto bene. Piega ginocchia quando vieni giù. Su, hai. Benissimo, Danielson. Non dimenticare il respiro. Dentro, fuori. Su, sì, giù. Polso. Su, giù. Su, giù. E chissà se qualcuno in questi mesi ha provato a tenersi in forma anche così. Ci avete magari provato? Perché diciamocelo, non solo scuola, non solo lavoro, c'è anche un'altra, tra virgolette, didattica a distanza, ed è quella dello sport. Ben ritrovati da Anna Migliorati. Sì, perché dal salotto di casa facciamo tutto dalla primavera scorsa, compresa l'attività fisica. E questo, come spesso accade, è diventato un business e non c'è DPCM che tenga. Però, come sempre, cominciamo con la nostra storia, anzi due questa settimana, cominciamo doveroso dai ragazzi. Non hanno chiuso le porte solo le scuole, dicevamo, anche le attività pomeridiane si sono spostate su tablet, PC o cellulari. Per necessità economica del mondo dello sport dilettantistico, l'abbiamo raccontato altre volte, e insieme e soprattutto anche per la funzione sociale di questa economia delle piccole cose. Allora, Sergio Borghi, benvenuto, è il responsabile tecnico progetto Giovani Cantù. Quando parliamo di Cantù, parliamo, neanche a dirlo, di basket, e ne parliamo perché qui è nata una delle esperienze pilota di questi mesi. Da subito abbiamo creato un po' i contatti. Cantù è un paese che vive attorno al basket, sono 40.000 abitanti e tutti i ragazzi sono sempre molto, molto in contatto tra di loro, e già lo erano prima. Cioè, pensavo che unicamente le videochiamate di WhatsApp fossero il massimo della tecnologia, invece ecco. Ho scoperto un panorama incredibile per contattare questi ragazzi che hanno mille piattaforme sulle quali vedersi e relazionarsi. Allora, è evidente che lo sport si fa in presenza, una squadra si fa in presenza. Sì. Su questo è inutile neanche dibattere. Però un po' ha aiutato a tenere il gruppo, a fare anche qualcosa. Cioè, siete riusciti a trasferire lì anche quel che si poteva fare. Comunque abbiamo dovuto sperimentare sul campo, nel senso sul campo digitale abbiamo dovuto sperimentare. Noi per primi, di uno sport di squadra, il primo intervento è quello strettamente relazionale e sociale, cioè la vita di spogliatoio. Abbiamo cercato di aprirla a livello così digitale per poter far incontrare i ragazzi e poterli far parlare tra di loro, poter cambiare comunque conoscenze, anche stati d'animo. E la seconda parte è quella dal punto di vista tecnico, dove più che altro dal punto di vista delle indicazioni su lavori individuali. Che va a compensare l'altro bisogno insieme a quello di vedersi, che è quello di muoversi. Certo, sì. Chi invece proprio si chiude a riccio sia a livello fisico sia a livello mentale. Ecco, noi vogliamo cercare di intervenire soprattutto su questi, nel senso di mantenere vigile l'interesse, ben sapendo che il problema più grosso probabilmente che noi temiamo sia quello di quando si potrà riprendere, perché non sappiamo come ritroveremo questi ragazzi. E anche quanti ne ritroverete? Esatto, anche questo. Noi comunque mettiamo già in preventivo comunque delle rinunce, tra virgolette, a quello che potrà essere magari il percorso, perché comunque non è una cosa semplice per i ragazzi. E se c'è chi gioca a basket senza un campo da basket, figuriamoci il fitness con salotti che diventano palestre. Bando alla pigrizia, ci facciamo aiutare da una personal trainer. Benvenuto anche a Sayonara Mott. Io, allora, sempre lavorato online prima ancora, perché già facevo già lezioni online, che era già un modo di poter risparmiare e ottimizzare più i tempi, no? Ovvio che adesso è più sistematico, no? Perché no? Ecco, di quanto è aumentata? Quanti sono in più? Quasi, diciamo, di 50-60%. Ci sono due punti, due tipi di canale, perché uno si chiama stream, ok? Ci sono dei collegamenti, tu non vedi i clienti dall'altra parte. Quindi che cosa succede? Tu fai degli allenamenti momenti dove tu non puoi correggere la persona, non puoi vederla. Tipo di approccio per una lezione di stream deve essere molto generico, ok? E questo succede, le stream class, succede normalmente con le app, su Facebook o diretta su Instagram. Quante sono le persone collegate contemporaneamente? Cioè diciamo che se un'aula vera, tra virgolette, una palestra vera, ci sono 30, 40, 50 persone, qui quante ce ne sono? Ma in stream io leziono con 500 persone. Loro pagano un'applicazione, ok? La persona paga l'abbonamento, quindi tu hai nella tua lezione, non lo so, 200, 100, 300, 500. Sono tante persone che si tuffano nelle stream senza neanche sapere che cosa è un squat, per esempio, capito? Invece di on demand, ovvero tu dai un link alla persona, tu conosci Zoom sicuramente, no? E io ti posso vedere, quindi c'è una interazione molto maggiore e funziona in piccola scala, quindi vuol dire che magari con Zoom tu puoi arrivare a 50, 60 persone, ok? Può dare un feedback subito. È una lunga storia che arriva da i programmi storici, quelli in TV, di ginnastica davanti alle TV che abbiamo visto tante volte nei film. Esatto. Cosa esatto. Funziona meglio e peggio ora? In Brasile, America, sì, già era più comunque, tipo, già da 5 anni tutte le palestre fisiche avevano già un canale virtuale. È una possibilità di dire, uno dice, ah, non posso venire quell'orario, vengo un altro orario, oppure mi alleno da casa. Quindi la possibilità dell'online è fantastica comunque, ok? E poi, secondo me, è venuta per rimanere, per essere comunque un tassello adesso da sviluppo. Anche per i costi, fai conto che è un'applicazione, ok? Che tu hai 50 lezioni, paghi 15 euro al mese, quindi il valore è molto basso. Ma tutto questo è stato davvero una sorpresa, diciamo più o meno, ha accelerato come in molti altri casi in questi mesi. Il mercato delle app per il mondo del fitness è in crescita costante ormai, infatti, da qualche anno. Su YouTube sono tantissimi i canali di fitness, ora più che mai, dai coreani di Alblank TV, che offrono allenamenti intensissimi, a Joe Wicks, trainer inglese che dall'inizio della pandemia ogni giorno propone mezz'ora di ginnastica in diretta per i bambini. E poi ci sono tantissimi italiani, tantissime palestre e portali dedicati interamente allo yoga, molti con le prime lezioni gratuite di prova per combattere, guarda caso, l'ansia. Poi c'è il caso di Fit Prime, una startup italiana che ha lanciato una piattaforma video per gli allenamenti on demand, una sorta di Netflix del fitness. Grazie al web lo sport è arrivato a casa, invadendo e rivoluzionando salotti, camere da letto, per chi può, cortili. E allora? Facciamo i conti. Da una parte il 77% delle aziende sportive sostiene di non avere le risorse economiche per resistere alla chiusura, percentuale che arriva all'82% se parliamo di più di 4 mesi. Anche da noi però mercato delle app che sta attraversando dall'altra parte un boom mai visto. Stime dicono che entro il 2024 gli utenti che le utilizzeranno saranno oltre 1 miliardo dagli attuali 825 milioni nel mondo, portando il fatturato da 3,5 miliardi di dollari a ben 5,72 miliardi di dollari. Allora saluto Paolo Menconi, presidente dell'Osservatorio International Fitness. Grazie a voi per avermi invitato. Tutto ciò che è fitness, che è palestra, sta vivendo un momento un po' particolare, un momento difficile da una parte per la chiusura di tutto quanto, dall'altra parte però anche un boom. In termini economici sta succedendo questo, che le palestre, faccia conto che in Italia ci sono circa 8.000 club, da marzo ad agosto hanno perso più di 200 milioni al mese, diciamo che settembre-ottobre hanno portato delle perdite che sono praticamente il doppio. Chiaramente è una situazione nella quale il mondo digitale ha un po' stravolto tutti i meccanismi. Sicuramente in questo momento è una necessità. C'era la necessità, per esempio, di prenotare gli accessi nelle palestre quando le palestre erano ancora aperte e quindi c'erano gli ingressi contingentati. Quindi questo ha un po' obbligato le palestre a attrezzarsi. Stessa cosa nel lockdown strutture si erano organizzate per poter erogare i servizi online. Una digitalizzazione veloce che già c'era invece in altri paesi. Sicuro, sicuramente questo ha favorito un aggiornamento del tutto il meccanismo proprio operativo. Fa capire anche quello che potrebbe succedere nel futuro. Sono cambiate un pochino anche le competenze o la distribuzione delle competenze. È chiaro che però adesso c'è sicuramente una necessità, guardando al futuro, di capire anche quanto in termini di qualità. È cambiato appunto anche l'utente finale, cioè chi ci va e chi li segue, o sono gli stessi? Sono gli stessi, se guardiamo proprio i numeri, sono state fatte delle analisi proprio su chi già andava in palestra e chi andava in palestra anche con una certa frequenza. Più del 66% delle persone che ci ha risposto andavano dalle 3 alle 4, 5 volte a settimana, quindi degli utenti molto fedeli, diciamo così. Faccia conto che per esempio abbiamo visto anche quante persone avevano acquistato per esempio degli attrezzi per long fitness, solo il 40%. Il 60% non li ha acquistati e non ha neanche intenzione di acquistarli in futuro. I braccialetti elettronici, per esempio, che aiutano per esempio a monitorare... Che non sono quelli dei carcerati, sono quelli per sapere come mi sto muovendo. Esatto, il battito cardiaco, i passi. Solo il 40% li ha e il 40% forse li comprerà. Ecco, guardando al futuro, noi spesso lo chiediamo, a chi conviene questa digitalizzazione necessaria? All'utente, alle palestre, a entrambi, a nessuno? Io penso che convenga a tutti. Il settore fitness in Italia aveva bisogno sicuramente e ha bisogno di un grande aggiornamento, sicuramente. Questo consente anche di andare a fidelizzare di più e dare la sensazione di essere proprio accanto. Grazie, a me non resta che darvi appuntamento con la prossima storia, la prossima Economia delle piccole cose. Ancora un saluto da Anna Migliorati.